Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta. Ehi, presenta, ma sta sempre a presentare, ma che cacchio si presenta? Ma che ne so, ma lascia fallo di bastica. Gente, stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. Ah, Puccio, vieni qua, dai, che stavamo a fermare, dai. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che è? Me. Oggi me? No. No. Signora! C'ho le roba fresca, ciccia fresca, sì. A ciccia, come quella che tiene il tuo puzzetto. E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Ma che? Ah no? Ma che? Ah? Galla, guardavo a finire. Ah? No. Questa è OGM Social Media Edition. Ma Social, ma che è stata stronzata? Soci che? OGM Social Media Edition. Va bene, altra cazzata. Noi e basta con tutto sto casino. La gente qua deve dormire, che si deve svegliare presto per andare a vedere i cantieri. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. Basta, no, basta. Carissimi amici di Runtime Radio, ore 21 belle che passate qui sulla nostra frequenza digitale runtimeradio.it. Benvenuti al nuovo episodio di OGM Social Media Edition come Marco, anche detto Gualdi. Ciao. Che ciao. Bello, un altro anno è passato. Esatto. E siamo ancora qui, che bello. Per ora. Sempre per ora. Walter, anche detto Sbano. Oggi che? No. Anche detto Puccio. Anche detto Bari. Bari, esatto, adesso ve la spieghiamo questa cosa, ma prima di spiegarvi questa meravigliosa cosa, questa sera Francesco non dovrebbe esserci, anche se non è dato, insomma non siamo aggiornati, non abbiamo informazioni in merito, però insomma non dovrebbe esserci. Questa sera abbiamo portato la terza versione della sigla. La variazione è veramente minuscola, ragazzi, molto molto minuscola. Poi ve lo ripeteremo magari durante la puntata e non la facciamo risentire ovviamente, perché non è che possiamo far sentire la... Però insomma, chi azzecca qual è la variazione minuscola che c'è stata durante la sigla entro la durata della puntata vincerà una maglietta ufficiale di OGM Social Media Edition, che andrà in vendita da domani sui nostri store, che poi metteremo, insomma, ci sono tante novità questi giorni, così tutti siamo svegliati col nuovo anno, un sacco di casini, un sacco di cose nuove, meravigliose, e adesso ve le elenchiamo tutte quante. Prima di tutto c'è la bellissima maglietta delle due banane che Puccio ha ordinato, però non però se... non arriverà. Però non arriverà perché lui si chiama Bari. Io mi chiamo Bari, sì. Secondo il negozio io mi chiamo Bari, quindi verrà consegnata a Bari. A Bari. Ma magari c'è qualcuno a Putignano che si chiama Bari. Sì, ma vuol dire proveniente. No, è proveniente però... dalla Nigeria, esatto. Quello è Bari. È Bari. Vabbè. Domani io dovrò telefonare a GLS per spiegare questa incresciosa situazione. Benissimo, diciamo benissimo. Che è stato il coronamento veramente di una settimana di merda. Di il coronavirus anche. Ma scusa, Puccio. Anche quello se ne non fai prima. Non fai prima a mettere sul citofono Bari? Sì, è quello che sto pensando di fare, di mettere un'etichetta per GLS, Bari, e sono io. D'altra parte, voglio dire, se l'indirizzo è quello giusto. Sì, è quello giusto. Tra l'altro, sempre dai magnifici, insomma, scusa, amici di Scusa, Puccio, metti un'etichetta, se la cosa è giusta, se l'indirizzo è giusto, metti soprattutto nome Bari. Sì, sì, è quello che sto per fare. Oppure, no, bravo, oppure bravo, appicci bravo. Un foglio di carta. Se cercate Bari Bari, su, citofonare Puccio. So io. Scrivi citofonare Puccio, così che non sta ovviamente sul citofono. Poi sai com'è successa poi sta cosa? Perché questa è la cosa affascinante. No, è bello che io informo prima di premere OK, li rilego perché so che diciamo gli autocompletamenti di Chrome o dei browser in generale. Un po' Aramengo, dici, un po' sono forieri di cazzate bibliche. Quindi, però secondo me, se Google ha deciso che tu ti chiami Bari Bari, ha ragione lui, ti dovresti adeguare, esatto. Io infatti andrei all'anagrafe, anzi no, bisogna andare dal giudice per chiedere, però poi il giudice potrebbe devi giustificare, esatto, cioè, potrebbe rifiutare, esatto, perché non c'è una motivazione sufficiente. Secondo per me dire c'è, va lì, se guardi, mi devono mandare questa guardi, maglietta del banane, esatto. E devo cambiare il nome. Secondo me il giudice le dice la maglietta vabbè, che cambiare nome per motivi di banane, esatto. Che poi signor giudice, mica una, due, perché così una ma mangio, non la posso mangiare. Secondo me alzo le mani e dice ok. Vabbè, comunque invece non perché debbano dirmi no, onestamente. Nuovi bot nascono invece sul nostro, abbiamo allora la novità è che il canale, quindi il broadcast, diciamo Telegram di Runtime, che era monodirezionale, continua ad esserlo, però si possono fare dei commenti, si possono commentare i post tramite ovviamente dirette Runtime, quindi c'è stata questa specie di fusione. E mentre finalmente, nel senso, ringraziamo comunque l'onorata carriera del vecchio bot, che però non era una cosa che potevamo gestire noi, dovevamo sempre chiedere se si potevano fare le modifiche. Il vecchio bot, chi è? Cioè, si chiama podcaster. Ok, allora stavo dicendo una cosa che avrebbero capito in due, niente, dai, dilla, intanto la capiamo comunque, anche se era una cosa che potevamo Giscard capire. Stavo dicendo una cosa, si chiama Giscard, Gualdi annuisce, quindi ha capito. Che Gualdi aspetta fai quello che annuisce. Esatto. Alla radio, esatto, insomma, vabbè, tante belle novità, ragazzi. Abbiamo iniziato l'anno così in maniera scoppiettante. Abbiamo fatto la diretta questa mattina. Leo addirittura ha fatto la prima trasmissione di Runtime Radio del 2023 ed è anche riuscito ad andare in streaming. Insomma, è una cosa incredibile. Come facciamo? Come quei bambini, il primo nato del 2000 dell'anno. Bravo. Tu sei stato. Si chiama Ilaria Elettra, la prima nata di questa. Bello. Cioè, sì, nel senso, Ilaria Elettra. Tutto non attaccato, secondo me. Primo e secondo nome, o uno è il cognome? No, due nomi. Sono due nomi. Bello, complimenti, bravi. Bravi, perché bravi. Madre spera che in futuro possa avere le labbra a canotto, il culo a. Non so, a Titanic. Il cervello della scimmia, probabilmente. Però vabbè, perché una non delle è, tre, no, una delle tre perché non è importante. Non no, è importante, no, come diceva. Una delle tre sicuramente la zeccherà. Come dicevano gli ex, cioè, anzi, i genitori dell'ex fidanzata di Berlusconi, alla quale hanno venduto la figlia, insomma, ancora minorenne, tra l'altro. No, quello non era la fidanzata di Berlusconi. Attenzione, poi quello che è successo non lo sappiamo, però era un'amicizia di famiglia, lui è andato l'amicizia di famiglia, va bene, sette anni di Noemi Letizia in quanto amico di famiglia, esatto, Letizia, io ce l'avevo un'amica mia che si chiama Letizia, poi che la madre le abbia detto a mamma scopate la mamma, questa è un'altra cosa che non è data a sapere, però queste però sono nostre relazioni, diciamo, no? Secondo me quella gli ha detto a mamma fatti metti incinta, ma sai com'è, c'è anche volendo già all'epoca, diciamo, situazione di maradoniana memoria, insomma, diciamo, sì, esatto, che la tizia andò in televisione di mi ha messo incinta, guarda che strano che non stato. Me lo sarei mai creso, infatti non sapevo di essere incinta, non sapevo che funzionasse così, poi era quella la cosa, insomma, più incredibile, però non sapevo che andasse tolto il tappo anche, diciamo, però no, dai, basta, guarda, continuiamo, che scherzo, la cosa del tappo è brutta. Non mi ha fatto molto ridere. Comunque, le frontiere della ginecologia. Invece, questa è stata, insomma, perché poi sai, le feste Natale, no? Tutto va calmo. Invece, no, Walter, non, cioè, le cose sono progredite uguali, insomma, anche intorno a noi. Di solito nel male piuttosto che nel bene, però. Insomma, cosa ci regalano i social media, soprattutto riguardo il governo, le guerre, insomma, queste... calmino, perché io me ne ero preparata una per una puntata che non c'è mai stata intorno a fine anno, però me la sono conservata perché il 21 dicembre, scusa, mi permettimi, la puntata che non c'è stata perché tu volevi fare vacanza, no? No, abbiamo fatto la finale dei mondiali, noi stavamo tutti qui aspettando di fare GM, è vero, invece... siamo rimasti qua, ma se fa sto GM, non si fa sto niente, GM, poi alla fine ci tocca la fare la finale dei mondiali. C'è toccato, vabbè. Perché non c'era Walter? Ha detto Mancini che ce la saremmo potuta giocare. Ah, scusa, che... scusa. No, no, c'era. È lui che non ci siamo qualificati. No, no, scusate, però scusate. Cioè, siamo un po' così. Sicuramente ti spoilerò un pochino la questione, però ti lascio la parola su una questione che... Cioè, non potevamo ovviamente, insomma, non esordire con una cosa... Perché noi, insomma, dei coccodrilli ne facciamo tanti, però poi ci sono dei coccodrilli che sono più coccodrilli degli altri. Insomma, Gualdi, chi è morto, Gualdi? Morto un sacco di gente questa settimana. Aspetta che... Vabbè, dai, aspetta, dai, uno in particolare, aspetta, dai. Aspetta che trovo il nome, Vabbè, io faccio di avanti. Aspetta, c'è Elep. No. Ha messo a contrario il biglietto, scusa. Sì, Pelé. È morto Pelé. È morto Pelé. Moro Pelé. È morto Pelé. Incredibile. Mamma mia, c'è la madre che c'ha 100 e passa anni ha detto poro figlio, poro figlio. No, la madre è morta. No, no, sto cazzo, c'ha più di 100 anni e ha detto poro figlio. Cioè, ma davvero? Sì. State a dire sul serio? Sì, è vero. No. Dai. Comunque, scusate, posso dire una cosa, soprattutto nella solennità della morte. Edson Anantes do Nascimento, ma che è cugino vostro che lo chiamate Pelé? C'è così, che va autorizzato qualcuno? C'ha ragione, ma sai, i brasiliani non mi capisce mai come cazzo si chiamano, cioè sempre sta cosa dei 6-7 nomi. E no, sta cosa della madre però mi ha turbato. Io penso subito al mago do Nascimento. Esatto. Beh, vabbè, tu vai, sì, io sono convinto che se tu vai a Rio de Janeiro e ti metti in mezzo alla piazza e dici do Nascimento e si alzano tutti, capito? Cioè, come Esposito a Napoli. È Ciro, Ciro, ah, Ciro. Ciro per dire do Nascimento merda e lì si alzano veramente tutti. E ti fanno il culo. Vabbè, però a Dio a Napoli Ciro merda, vediamo che succede. Insomma, perché pure forse secondo me è la stessa identica cosa, ma con delle modalità di violenza diverse. No, perché poi ogni più creative. Sì, ogni ambiente ha la sua. Insomma, vabbè, io avete capito. No, vabbè, comunque è morto Pelé, ragazzi. È incredibile, chi l'avrebbe mai detto? È una cosa, insomma, che prima o poi, insomma, sapevamo che sarebbe successo. E quindi si è riacceso il famoso dibattito. E qui voglio sapere la vostra opinione. Se è meglio Pelé, se Maradona è meglio se Pelé. Maradona è meglio Pelé, oppure Maradona è meglio Pelé. Puccio, secondo te chi è meglio di Pelé, o Maradona o Van Basten, ad esempio? Maradona è il portiere, cioè. No, guardate, io non mi esprimo perché so talmente tanto poco di questo argomento. Tu sei da Juve, che cazzo ci capisci? C'è ragione, è vero, questo è un po'. Credate Dio. Cioè, io mi rifiuto di esprimere pareri su questi argomenti. Guardi, tu che sei ferratissimo. La mia ignoranza. Come? Tu che sei ferratissimo, sì. Se era meglio Maradona o Pelé? Ma guarda. Troppo poco te, cioè ritmo. Allora, guardi, ritmo. Secondo me è stato meglio Pelé perché ha campato di più. Quindi... Beh sì, insomma, secondo me è stato un po' più morigerato, un po' più attento. Diciamo che Maradona però è bruciato più in fretta. Quindi è brillato il doppio, come dicevano doppio, su Blade. Ma la stella che brilla il doppio brucia a metà tempo. Dura la metà. E vabbè, e questo. E poi considerato che Pelé era pure agevolato era geneticamente. Una candela, però, Era vero, era una candela, hai ragione, è vero, scusa, vabbè. No, però Pelé era, da quello che mi dite voi, era agevolato geneticamente. Se invece sentiamo Walter, che minimo un po' più di voce capisce, insomma, di quello di cui stiamo parlando. Ma di calcio ti dico, allora, se siamo, sono due generazioni diverse, non sono contemporanei sportivamente, Pelé e Maradona. Pelé è venuto molto prima. Se ti devo dire da un punto di vista calcistico puro, spettacolo puro, Maradona è a un altro livello ancora. Però umanamente sicuramente hanno avuto due vite completamente diverse. Ma Pelé, col fatto che poi è stato dichiarato patrimonio nazionale, quindi non ha mai lasciato il Brasile, noi in Europa lo abbiamo, non so se poi in quegli anni si dice che alcune squadre anche italiane lo volessero comprare, e ovviamente lui non ha mai lasciato il paese d'origine, però non so dirvi se avendo giocato in Europa avrebbe avuto una carriera diversa. E questo è il grande interrogativo. Maradona è diversa, chiaramente. No, è vero, perché il grande interrogativo infatti è proprio questo, cioè il fatto che Maradona, se avesse giocato in Europa, è vero che Maradona contro le squadre europee a livello mondiale, insomma, ha giocato contro tutti, però insomma, sai, giocare con in un campionato diverso, insomma, da quello brasiliano, in un'epoca sicuramente diversa, quindi era normale. Questo ha fatto qualche migliaio di gol, insomma, 1200 circa. Però secondo me Maradona il calcio di Maradona era più bello. Maradona, cioè. Maradona è un'altra storia, ragazzi. Poi Pelé, per carità, è stato il mito dei miti. E alla fine, comunque, in qualche maniera si è iconizzato, no, in quel modo lì. E comunque, prima di. E qui passo veramente la parola a Walter, così ci fa un'introduzione. Però dobbiamo dire che hanno presentato, dato che stiamo parlando di sport, il nuovo logo, anzi, non il nuovo logo, il nuovo scudetto sulle maglie di tutte le nazionali italiane di calcio. Dici, come tutte. Il nuovo fascio littorio, perché se lo vai a vedere. Eh sì, diciamo è un ritorno, diciamo, molto tradizionale, nostalgico, molto tradizionale, insomma, è un po' in tema, insomma, con l'epoca del momento, diciamo, cerca di avere quell'apparenza, ma noi non ci riusciamo proprio, cioè, ho visto la nazionale di calcio con maglie fighe, con loghi fighi, no, noi non ci riusciamo, noi c'è proprio, ci discostiamo ogni tanto. Mi ricordo la scudetto della nazionale più avveniristico che abbiamo visto era quello di Italia 90, lo ricordate? Con le tre stelle di lato, tutto per diagonale, col cerchio, esatto, bravo. Quella secondo me è stata l'unica volta che proprio criticato da morì quel logo, però che a me piaceva, poi tra l'altro, a parte a me piaceva tantissimo quella maglia acetata, era bellissima, secondo me è stata forse la più, tanto sulla chat diretta Rantan Radio l'ho messo il nuovo logo, sì, tanto c'è nessuno, c'è. Quindi un leggerissimo richiamo alla nostalgia di un paese che fu, di un ventennio che fu. Esatto. Sì, diciamo che è lo squadrato proprio dello scudetto, quello tradizionale, cioè proprio quello che lo si metteva negli squadrista. Negli anni 50 che si appiccicava sulle magliette, che voi sapete che non è che è come oggi, una volta prendevano le magliette e ci cucivano sopra lo scudetto, che poi non so se avete mai visto le immagini quelle storiche, cioè sto scudetto che era grosso come una mano praticamente. Sì, sì, beh, quello anche dell'epoca dei re, cioè la primissima nazionale era grande quasi quanto la maglietta. Sì, esatto. Diciamo che le proporzioni erano un po' diverse. Sì, non c'era questa visione della miniaturizzazione che abbiamo oggi. Ma d'altronde lo dovevano vedere dagli spalti. Esatto, per capire di chi stavamo parlando. Infatti. Perché non bastava vedere la squadra con la maglia nera. No, diciamo. No, erano tutti quanti in bianco e nero in quell'epoca. Oh, c'è Luca, però c'è Luca, vedi che ci dà sempre soddisfazione, insomma, la presenza di Luca, almeno lui. Luca, tu hai indovinato qual è la modifica, la sigla di OGM di questa settimana? Perché c'è un premio importante. Comunque, vai Walter. Allora, andiamo a Twitter. Vi dicevo, no, che ho conservato questa notizia del 21 dicembre perché mi sembrava doveroso. E post di... però in realtà in questo caso andiamo su Instagram. Attenzione. Post di Asia Argento che scrive in merito alla condanna a Weinstein e dice: ci sono volute 2 decadi e 16 anni di analisi per liberarmi di questo critico interiore in primis, scrive l'attrice proprio appunto su Instagram, e per imparare a farmi scivolare le insinuazioni dei detrattori poi, che facevano ancora più male perché ero stata io la prima ad incolparmi, in riferimento al fatto che lei fu una delle prime a criticare, cavalcare l'abuso che aveva ricevuto, che aveva subito da parte di Weinstein, questo produttore americano che insomma poi è diventato questo dagli annoni della cronaca, perché scoperchiato il vaso di Pandora si è beccata a partire dal 2017 uno tsunami di denunce di attrici e di donne del mondo di Hollywood che hanno creato il famoso movimento Me Too. Le attricette. Il concetto. E quindi Asia Argento scrive questo papiello nel 2017, dopo che io e altre donne liberammo la parola rendendo pubbliche le violenze sessuali subite da Harry Weinstein, ci fu vero e proprio tsunami mediatico e subì da parte dei media e degli haters quello che viene chiamato victim blaming. Vabbè, insomma, un post sentito, lungo, dettagliato, che tu dici: cavolo, vabbè, giustamente ha condiviso qualcosa di intimo, qualcosa di emotivo, qualcosa di molto forte, e lo ha fatto per ricordare un evento senz'altro delicato e critico. E se non fosse che a corredo della sua esternazione su Instagram a proposito di intimo, ha ritenuto opportuno associare questa foto di lei col tatuaggio, famosissimo tatuaggio che arriva alla vulva, bene in mostra, e tu dici: ok, allora scusa se ti ho ritenuto per un attimo una persona intelligente, perché se per costruire il contesto poi ci metti sta foto, evidentemente scemo io che ti ho dato retta, ecco. Io però scusa Sbano, ti devo fare una critica, perché io questi anche termini due. Così vulva, sai che la maggior parte dei nostri ascoltatori non sanno cosa significhi. a questo livello siamo. Probabilmente non l'hanno neanche mai vista, però. Altri sicuro, altri sicuro. Soprattutto nell'ex gruppo ludico forum, che ora non si chiama più, perché secondo decreto reale di Carlo Sant'Agostino ha cambiato nome. Ho letto. A proposito di panico successo tra ieri e oggi su Runtime, appunto, tempo di lunghi cambiamenti. Esatto, quei cambiamenti così. Hanno nuovo, vita nuova. Così moderati poi, eh. Diciamo, c'è stato un momento di autarchia. Esatto. Vabbè, ma va bene così, per carità, andiamo avanti. Ah, vabbè, però insomma, diciamo, qui si chiude questo cerchio, questo contesto in cui, come spesso avviene, accompagni il sacro e il profano, quindi il pensiero profondo associato alla nudità, perché tu dici, vabbè, ma le due cose perché le devi... Cioè, capisci che ti delegittimi da sola facendo una cosa del genere? Non so, allora, che ne pensate? Beh, diciamo che lei è sempre stata un po'... Allora... Io, vabbè, inutile che ritorna sempre. Vabbè, raga, Asi Argento Fattona per le vie di Roma, la molista. Io l'ho incontrata tantissime volte a Campo dei Fiori, ragazzi. E a volte era difficile reggere in piedi, insomma. Quindi... Però lasciamo perdere ora questa storia. Ok, cioè, vabbè, sei cresciuta, sei maturata, no? Cioè, perché poi l'avevo vista già sta foto, però non è che gli avevo dato tanta importanza, perché poi comunque c'è anche un po' una certa, tipo, no? Quanti anni c'ha? Sì, credo che grosso modo l'età nostra, insomma, sarà, vediamo un po'. Ve lo dico, è del 75, quindi sì, sì, dai, siamo vicino ai 50, cioè, anni. 3 anni più di me. Sì, se vedi in faccia, insomma, incomincia a averci i segni della droga, no? Perché poi, e secondo me, poi alla fine, comunque, tu, per quanto secondo me non sia mai stata una stupida, cioè nel senso che comunque è una persona che ha un suo ragionamento, magari, no, su certe cose, però poi alla fine, comunque, le conseguenze un po' del modo in cui tu hai vissuto, alla fine te le porti dietro, no? Cioè, io non voglio criticare lei in quanto tale, perché alla fine io non me la sono mai inculato più di tanto e non neanche mi interessa come personaggio, però dai, bisogna dire che insomma alla fine ste cascate qualche volta ce l'hai, perché a me purtroppo... dispiace che però quando lancio un messaggio così importante, perché ovviamente il concetto che lei voleva esprimere non era banale, e lo hai depotenziato completamente, hai mostrato il fianco oltre che altro a tutti quelli che hanno, come ho fatto io poi in maniera anche abbastanza, se vogliamo, stereotipale, ho fatto notare l'errore che secondo me ha commesso e che è la prima cosa che avranno criticato tutti. Poi per carità funziona, perché magari parlano di lei in ogni caso. Ma qual è il messaggio, il contesto del messaggio? Perché mi sono perso penso che io penso che sia, guardate che bei tatuaggi che ho. Credo che il sia questo. Il messaggio era quello sulla questione del Me Too, di Weinstein, cioè del fatto che lei finalmente ha fatto pace con se stessa. Però ripeto, per calamitare l'attenzione degli utenti, okay, sul messaggio, okay, ci ha messo lei con... Beh, alla è quello che si fa normalmente, cioè quando, no, quando devi pubblicizzare, che ne so, una nuova pasticca contro l'influenza, ci metti duzzine. Cioè, No, in realtà guarda, è alla stregua di alcune cose che andavano molto di moda su Facebook, e mo probabilmente ancora esistono, però io non ci faccio più caso. Che era queste ragazze se facevano, ragazzi, a volte anche donne, anzi, forse donne ancora di più, perché ti ricordi ai tempi dei morti e bestemmie, quando parlavamo delle bimbe minchie a 40 anni, no? Che se fanno praticamente queste foto con lo scollatura, le zinne strizzate, e dicevano: pensiamo ai bambini che soffrono per la guerra, no? Io penso che soffrono per la fame, c'è stato tutto batterie, c'è stato. Vabbè, il concetto era quello, no? Cioè, nel senso, questa è la cosa che per attrarre l'attenzione. Però lo sapete poi qual è il problema, secondo me, di questi personaggi qua? Che alla fine, quando tu sei al di fuori dei riflettori, sei lontano dai riflettori, secondo me lo soffrono molto di più delle persone normali. Cioè, certo. Capito? Sì, cioè, sì, sicuro, indubbiamente sì, però l'invisibilità faccio un esempio, è una roba faccio brutta, c'è gente che ci sta ammazzata. Sì, sì. Se a un certo punto cosa posso fare io per non essere invisibile? No, se tu a un certo punto ti rendessi conto che nessuno si sentesse in cula. Vabbè, ma non è che così. Vabbè, certo, siamo punto... abituati, Marco. Esatto. No, infatti, quello che tipo, se non fosse per Poro Luca, ad esempio, stasera che cosa sentiresti tu? Niente. Ci vede il cazzo. Vabbè, diciamo non sei Asi Argento. Io sono contento quando ricevi. Ragazzi, gli ascolti sono raddoppiati. C'è qualcuno che vigliaccamente non si sta palesando. Infatti, maledetti. Ah, maledetti. Scusate, chiudo il. No, nel senso che io sono contento quando ho un riscontro, ma non mi dispiaccio quando non ce l'ho. Cioè, nel senso. Siamo... È la normalità. Esatto. Insomma, vabbè. Comunque, vabbè, niente, Asia. È andata così. Asia, io gli suggerisco di fare la doppiatrice come ha fatto il padre. Io gli suggerisco, che paura lei l'ha fatto. Io suggerisco di cambiare per favore. Io gli suggerisco di cambiare il nome in Asia. Asia, e andare a, a vivere fino a Bari Bari. Esatto, al palazzo accanto a quello dei Bari Bari, che insomma. E poi il vero problema è che lei in realtà si chiama Aria Maria Vittoria Rossa Argento, lo sapevate? No, non lo sapevo. Com'è? Aria Maria Vittoria Rossa Argento. Ok, quindi rossa, beh, bello rossa. Anche no, rossa argento, perché rossa argento. Questo è quello che può capitare quando tuo padre Morgan gli è stato dato il privilegio di scegliere il nome, eh? Quindi, ok. Beh, no, ricordiamoci il collegamento. Il padre non è Morgan, il padre è Daria. Non è il nome della figlia quello complicato, no. No, lei si chiama, ripeto, Aria Maria Vittoria Rossa Argento. E qui potremo parlarne a mezz'ora su sto nome. No, la figlia non me lo ricordo sinceramente come si chiama. Ah, mi ricordo che è un nome complesso pure Rombo. Vabbè, comunque alla fine quelli quando hanno dato il nome alla figlia sicuramente erano ripetutamente sotto effetto, che tra l'altro pure il padre non era uno che ci scherzava quando era ragazzino, cioè nel senso. I figli uno si chiama Anna Lu Castoldi e Nicola Giovanni Civetta. Ah, ok, Anna Lu è la figlia con Morgan. Vabbè, sì. Anna Lu, dai, carino Anna Lu. C'è posta. Sì, no, lei c'ha sto nome. Mi ricordavo un nome più lungo, chissà perché. Straordinario. Poi ricordiamo, insomma, che quando parlavamo sempre con la nostra amica Sonia Topazio, che ci raccontava gli anni in cui è stata insieme a Dario Argento, e ci faceva vedere le foto, ed erano veramente gli anni 70 sono stati bellissimi, ragazzi. Questa gente, secondo me, non si rendeva conto di camminare drogato per strada e nessuno gli diceva niente. Quindi, comunque, vabbè, dai, parliamo di altro. È morto. Dai, salutiamo Asia, che insomma ci ha dato sempre grandi soddisfazioni. Io mi ricordo un giorno accendo la televisione per sbaglio e c'era un film con Asia Argento dove c'era un niggas che stava tromba dentro un camerino. XXX, che era? Non so che film era. Perché era l'inizio di XXX e quello era. Perché poi ho spento. Diesel. No, non era una nigga, era. Che era? Se no era B-Monkey probabilmente. Non lo so, però lei dentro un camerino praticamente che era tipo una roulotte. E praticamente questo stava in. Diciamo. No, allora ok, sì, quella scena lì che c'era proprio il nigga nigga nigga era B-Monkey. Ok, perfetto. Vabbè, insomma, che da dietro, insomma. Però sai, è stata anche in film sperimentali, tipo, cioè lei sta in New Rose Hotel, sì. È un film preso da un racconto di William Gibson dove ci sono lei, William Defoe e William Shatner. E Kamano, il disegnatore di Final Fantasy, una roba folle. Così proprio, cosa è casaccio. Nei primi 2000 ha avuto un paio di occasioni, ha lavorato anche con Abel Ferrara, insomma. Ci ha fatto anche un film Zombas, mi sembra, uno dei vanti ritorni dei morti ammazzati. Vabbè, ma perché il padre l'aveva comunque lanciata nel settore dell'horror. No, ma ultimamente, cioè negli ultimi 20 anni. Sì, poi lei si è messa a fare la fotografa. Ha fatto Mirror's Edge. Vabbè, Mirror's Edge, lasciamo stare. La più grande interpretazione, ricordiamoci. Sempre meglio del padre come doppiato. No, no, no, secondo me il livello è lo stesso. Clark, le letture, riattivare le letture, poi visto che ci stai, ma poi solo in Italia queste cose si mi porti la pagliata che solo da noi là, perché per esempio le frattaglie per fare effetti speciali gli devi sperare questo coso che ha pistola per fargli scappare le frattaglie, fai la pusa, bella piatto di pagliata, poi se famo che stava parlando con Shatan, un videogioco doppiato da Guzzanti nei panni di Lorenzo, mi sta piacendo tantissimo. Vabbè, scusa, cioè te lo stai immaginando e ti sta piacendo, vabbè. Ma è in Unreal Engine 5, vabbè, comunque. Sì, devo proporre questa cosa a qualcuno. Si è rispento l'hard disk di Runtime, ragazzi. Attenzione, pregate questa notte perché sarà ennesimo coccodrillo. Sarà una lunga notte, perché speriamo che arrivi in tempo l'hard disk successivo. Insomma, perché veramente dopo 9 anni sta proprio. Fa bene. L'ho spento. Ma secondo me si è ingelosito perché ha saputo che arriva quello nuovo. No, è il contrario, quello nuovo arriva proprio perché oggi proprio ho faticato tanto, capito? Faceva così, si accendeva, si spegneva, faceva. Scusa, l'ho spento fino a quando non arriva il nuovo. Sì, sì, è quello che farò, solo che mo mi serviva per caricare gli asset, sennò stasera sarebbe stata complicata, insomma. Facevamo senza. E tanto li facciamo noi gli asset. Sì, sì. Senti, ma io ho letto, Puccio, mi sono arrivati tantissimi messaggi da Quora. In realtà me ne sono arrivati molto pochi, perché diciamo ho avuto un po' complicata. Te l'ho mandati io, però. Cioè, sì, infatti ero lì che li leggevo, cioè meno male che c'è Simone. Io le faccio da assistente. No, ragazzi, in realtà più che dal mondo di Quora vi porto una testimonianza di vita vissuta, di una vacanza di Natale che spero non capiti a nessuno nella vita, mettiamola così. Non è iniziata bene. La notte tra il 24 e il 25, purtroppo, nella mia famiglia c'è stata una persona che è venuta a mancare, una zia che non stava bene, quindi già insomma l'atmosfera non era delle migliori. Il 25, niente, siamo stati dai miei suoceri e mio figlio, giocando con lo zio, ha deciso di provocarsi una microfrattura al gomito, quindi abbiamo fatto la sera del 25 al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Bari, per di più. Il 26 il funerale, quindi cioè, è stata una settimana veramente meravigliosa, no? non sto qui a dirvi. Beh sì, in effetti insomma io mi sono vergognato di telefonate e dite buon Natale. Quando avete fatto il triage al pronto soccorso è stato registrato come Pietro Bari? Sì, è stato Pietro Bari Console. Esatto, è importante, questi sono dettagli. Pietro Cesare Bari Console, abbiamo dato proprio l'estensione. Tra l'altro ha notato mia moglie che la sera in cui abbiamo portato il bambino erano tutte infermiere bionde con gli occhi azzurri, dottoresse giovani bionde con gli che occhi culo, azzurri. Che culo, che culo. Sì, invece stamattina che siamo andati a togliergli la c'erano i baffi. Sì, c'era tipo gente... Le famose donne turche, no? Quella che si chiamava l'attore Ron Jeremy, roba del genere più o meno. Bello. Sì, tipo Super Mario, questi personaggi così. Quindi diciamo, è stata proprio una settimana fortunata. Allora, in realtà dal magico mondo di Quora, in realtà ho selezionato una roba un po' diversa dal solito. In realtà questa è stata la settimana, al di là di quello che mi ha mandato Simone, che ne parliamo dopo, è stata la settimana delle domande esistenziali. Tipo, ogni tanto comparivano domande tipo cosa senti in questo momento? Sono state varie risposte. Altre domande tipo stai attraversando una fase particolare della tua vita in questo momento? Non lo so, è Natale, sono in un pronto soccorso, mi rimputo. Vabbè, ma loro non lo sanno, però. Loro non potevano saperlo in questo momento. Però io gliel'avrei scritto. Vorresti, questa è stata veramente una delle cose più nonsense che ho trovato nella mia vita. Ti piacerebbe poter reimparare a leggere? Cioè, dipende se mi devi prendere ictus. No, tu non leggi il sottotesto complottista di sta cosa. Cioè, che tu oggi sai leggere, però come te l'hanno insegnato loro, capito? Ma in realtà, se tu oggi ti reinsegnassi da solo. Scusami, me l'ho visto in maniera clinica. Cioè, te prende ictus e ti dimentichi come si legge e diventa. Esatto, tipo, magari diventi Bruce Willis, però lì non c'è speranza. Anche lì ti piacerebbe reimparare a leggere, quello sì, quello sicuro. A lui c'è un'altra domanda esistenziale, ma in realtà più di natura tecnica, che riguardava ChatGPT. Secondo voi sarebbe possibile chiedere a ChatGPT di generare domande casuali per Quora e le relative risposte? Secondo me è quello che succede regolarmente tutti i giorni, poi. Esatto, non troviamo un'altra spiegazione. Però la più bella, ragazzi, scusate, poi dopo ti faccio continuare, Puccio. Però la più bella è: ma voi vi sentite soli? Cioè, uno ti scrive voi vi sentite soli, ma tu che cazzo gli rispondi? Hai provato a parlarne con qualcuno? Credo che sia la risposta. No, c'è uno che a un certo punto gli risponde: no, è solo, come fai? Beh, no, ma perché se tu torni a casa dopo una lunga giornata di lavoro e non vedi l'ora magari di parlarne con qualcuno, e appena entrato dentro casa ti levi la giacca e ti guardi intorno e ti rendi conto che non c'è nessuno con cui poter parlare, sì, allora ti senti solo. Bello i social media, insomma, che ci danno una mano, insomma, ad avere un'immagine positiva della vita, che per carità, cioè anche le persone che stanno sole. Ma perché anche qui è clinico, però se tu entri dentro casa e ti rendi conto solo in quel momento che sei solo, c'è qualcosa che non va. Esatto, perché tu pensi invece che ci sia qualcuno. O sono scappati mentre eri al lavoro e fatti delle domande. Forse è quello. Cioè anche qui, ti piacerebbe imparare di nuovo a leggere, perché, vedi? Perché magari... in effetti lui non è che dice io sto tornando a casa, mi piacerebbe che ci fosse qualcuno con cui... No, lui dice che quando tu entri a casa e ti rendi conto che non c'è nessuno, è lì, allora vuol dire che, cioè, il setting è diverso, capito? hai imparato a leggere. E anche lì, quadra il cerchio. Fate la domanda e date la risposta, insomma. Comunque, ragazzi, digressione rapida. Sì. C'è stata una conversazione in cui indirettamente ho preso parte anch'io. Bravo, bravo, hai fatto bene. No, ma perché un ragazzo ha cominciato, si parlava di modifiche dei personaggi di fantasia quando passano da un media all'altro, no? Tipo Death di Sandman, che è stata ritratta nella serie TV come una ragazza di colore. Tutta una serie di spiegazioni, più o meno Gaiman che ha detto varie cose, ma in realtà c'è stato un ragazzo. Su Sandman mi pare ci sono state diverse modifiche, insomma. Sì, ma alle razze, siccome le ha scritte Gaiman, che cazzo gli vuoi dire? Cioè, l'ha fatto lui, se lo può perdere. Che lo dice da solo, e lui è Gaiman. Sì. Cioè. Ma al di là di questo, c'è stata un'affermazione di un ragazzo che ha detto: vabbè, è come se un giorno mi facessero una versione di Goku di colore e io non riuscirei più a guardarlo. E un ragazzo sotto gli ha risposto: Goku è stato bambino, adulto, scimmione, biondo con gli occhi azzurri, più biondo con gli occhi azzurri, scimmione dorato, mezzo scimmione, mezzo umano con pelo rosso, fuso con altri uomini, però nero no, eh. C'ha ragione, mi dispiace ma c'ha ragione. Chi è che l'ha scritto questo, tu? No, io no. Ho voluto rispondere. Però se tu l'avessi scritto, però mi saresti piaciuto, tutto sommato. Dici? Vabbè, forse ti mando uno screenshot. Ma perché quello che hai scritto tu è peggio, sì. Dici? No, è esattamente quello. Aspetta che te lo do. Vabbè, diciamo che me l'ho fatto un attimo prendere la mano perché ero bello nervoso per i fatti che vi stavo. Beh, sì, immagino. Comunque, ragazzi, in tutto questo, durante il pranzo di Capodanno, la cena di Capodanno, pardon, che è andata stranamente bene, dati insomma i precedenti, ho scoperto una roba. Allora, il padrone di casa ha una figlia tredicenne che è stata con noi a cena. Abbiamo cominciato a parlare di social media, parlando più o meno di chi aveva trovato roba, rincontrato amici, eccetera eccetera, e lì a un certo punto ci ha guardato e ha detto una cosa che è difficile darle torto: fatto, ma queste sono cose da vecchi. E io gli ho chiesto: scusa, che cosa? E lei li ha elencati, cioè Twitter, Facebook, Quora non lo conosceva, vabbè, gliel'ho fatto vedere io. In pratica loro campano prevalentemente su YouTube e TikTok. Sì, è vero. Questo, beh, va bene, per carità di Dio. È lo scorrere dei tempi, però per però, le coincidenze, anche perché se vai a vedere per un ragazzino è tutto roba da vecchi, cioè nel senso tutto ciò che non interessa a lui è roba da vecchi, cioè è pure facile così, no? Cioè nel senso, guardi, il bambino passato. Il passato è il passato, certo. Ragazzi, il passato di bambino? Buono, quello dopo. Il famoso bambino che intervistammo ad Archeologia Informatica, lui ha detto che il passato non ha mai importanza, il passato è passato, e l'importante è il presente. Appaiono screenshot sul stante? No, però Luigi Marrone lo insultò in maniera pubblica una volta. Nazionale più di una volta. Vabbè, comunque andiamo avanti. Scusa, finisci Buccio e poi torniamo a Valter. Questo mi ha aperto, come vi posso dire, una serie di considerazioni. Ma siccome probabilmente Google ci ascolta tramite il cellulare, come dicono i complottisti, stamattina mi sono trovato sicuramente, un bell'articolo. Sì. Cioè, vuoi dire? Cioè, è sicuro. No, adesso guardate, sta cosa l'hanno tolta, ma una volta Google Home, se disattivavi il microfono e pronunciavi la frase di sblocco, che ora non posso dirla se non mi si accende tutta casa, ti rispondeva: devi riattivare il microfono perché io possa funzionare. Che bella presa per culo, insomma. Sì. Comunque, sto dicendo, ti sto trollando. Disabilitavi la comprensione di quello, esatto, che diceva. Cioè, lui sentiva in quel momento il microfono. Lui ti sente, ma faccio finta di non sentirti. Stavo dicendo, mi sono trovato questo bellissimo articolo che poi vi linko, sta su Wired, in cui l'autore sostiene che stiamo per entrare nell'epoca del post social media, che proprio stringendo torneremo a farci i cazzi nostri. Ma magari, guarda, magari. E lui sostiene che in realtà le generazioni più recenti, quindi quelle nate diciamo dopo i primi anni 2000, continueranno a condividere questi contenuti, tipo i video su TikTok, fare le dirette su YouTube, ma i contenuti saranno sempre più orientati verso qualcosa di pseudo artistico, di artistico, e meno sul racconto della propria vita personale. Sì, più di creativo, dici, certo. Sì. No. Beh, perché c'è stata comunque una sovraesposizione, no? Come tutte le cose, dopo un po' sbragano i coglioni e vaffanculo, insomma. Beh, sì, comunque. Alla certa hanno pure rotto il cazzo. Walter! Allora, illuminaci di immenso. Addirittura no, tutta, perché tutta sta questione sui giovani eccetera mi ha fatto venire in mente che oggi leggevo che Warner Bros ha in mente di fare il reboot della saga di Harry Potter, perché gli hanno fatto fare un sacco di palanche all'epoca, mentre invece gli altri film dell'universo espanso del Wizarding World non hanno funzionato. E quindi che si fa? Si fa il reboot tra, in un lasso di tempo previsto tra 3 e 5 anni da adesso. Io me lo immagino come sarà il prossimo Harry Potter: sarà di colore, gender fluid, senza una gamba, cieco e non so che altro. E c'è da dire contro i ciechi, scusa. 7 minoranze tutte insieme. Hai sentito parlare della maledizione dell'erede? Che praticamente la Rowling scrisse uno pseudo seguito considerato. Ma qui si parla di reboot, non si parla di. No, ma fu la Rowling la prima a cambiare l'aspetto di un personaggio. Perché quando portarono Harry Potter al teatro, Hermione era una ragazzina di colore. E la Rowling disse una roba. A me la Rowling non è che mi piaccia tantissimo. Però è una nazista roba, anche perché insomma, era difficile dare torto, dicendo effettivamente che lei aveva scritto che aveva questi capelli rosso ramato, eccetera, eccetera. Ma non aveva mai scritto da nessuna parte che fosse bianca. E in effetti, avendo letto i libri, vabbè, ma che vuol dire? Scusa, facevo, sì, non l'ha scritto. Capito? Io non l'ho scritto a questa cosa, quindi può essere anche verde. Allora, fosse scusa, di colore, che vuol dire? Sì, sì, no, vabbè, qua, a chi gli faceva notare sta roba, disse: guardate, sì, l'attrice ha contribuito a scegliere io, ma se proprio vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, io non ho mai scritto che fosse bianca. E in effetti, sì, però, tu trovi una persona di origine genetica afroamericana che possa avere i capelli rossi, geneticamente è impossibile. Perciò, da che ma non è neanche. Che in realtà neanche la descrive rossa, dice che è castano ramato, una roba del genere, non mi ricordo. Comunque, vabbè, comunque dai, era vabbè, così. Almeno che non è albina. E c'è sta pure quello nei romanzi. Ma poi avrò? Avrò. Allora, vabbè, comunque torniamo a. Ma, che poi, tra l'altro, come fai a fare un reboot di una cosa che è uscita 10 anni, cioè 10 anni fa? Il problema, Simone, è che non è così. Il problema è che dal primo Harry Potter ne sono passati 20. Ah, ok. Vabbè, io non ne ho visto. Il tempo vola drammaticamente. Io non ne ho visto neanche uno. Cioè, quindi, ragazzi, tra l'altro, si parla di fare una serie di televisive. Ma infatti. Quelle pareva che ci abbiano rinunciato. Comunque, meno male. Vabbè, sarebbe stato più interessante. Quello di Ritorno al Futuro invece? No. Vabbè, però no, volevo tornare. Dai, torniamo a Walter. Torniamo a bomba, va. Volevo tornare a Twitter e volevo parlarvi di questo post di oggi, anzi in realtà di ieri, del primo gennaio, di Francesco Giubilei. Giubilei è un editore, si definisce presidente della Fondazione Tatarella in Nazione Futura, quindi insomma comunque una persona abbastanza orientata al governo conservatore, quindi assolutamente allineata con l'attuale governo in carica. Ieri scrive questo tweet indignato. Sapete la storia della ragazza che è stata accoltellata a Roma Termini? Poi ragazza di 24 anni israeliana che è stata accoltellata non per motivi di rapina, insomma ci stanno tante ambiguità su questa cosa, però fatto sta che insomma il succo è sta ragazza mentre comprava un biglietto al distributore automatico alla stazione Termini è stata zaccagnata da uno che poi è scappato. E allora lui scrive su Twitter: ragazza di 24 anni accoltellata ieri a Termini alle 21:30 mentre acquistava il biglietto ed è ricoverata in gravi condizioni. Stazione di Roma di sera e notte è sempre più pericolosa, alla meglio si è importunati, alla peggio accoltellati. Cos'altro serve per aumentare la sicurezza? Momento di gelo da parte di tutti i più abituali commentatori di Twitter, giustamente un po' tutti gli fanno una nota. Guarda, quando si governa bisogna trovare soluzioni, non fare propaganda. Vi siete accorti che al governo c'è state voi adesso? Quindi dice, fossi in te uno gli dice, chiederei le dimissioni del ministro degli interni, per esempio, gli risponde qualcun altro. Oppure, servirebbe un ministro degli interni competente. Oppure qualcun altro gli domanda: ma siete al governo o sbaglio? Capisco che dubiti delle capacità dei vostri ministri, ma insomma almeno provaci. E così insomma è stato un che poi tra l'altro che dice sta cosa dell'approfittare qualsiasi situazione per poter sparare la propria cazzata pseudofascista, no? Che un po', non dico si era attenuata, perché cioè giustamente loro, ecco, come dite voi, no? A un certo punto sono andati al governo e quindi cioè nel senso hanno detto cercavo di sparare le cazzate perché siamo più esposti, adesso non servono, dopo, esatto, esatto, dopo quando poi riperdiamo le elezioni dopo possiamo ritornare, cioè adesso siamo più esposti. Questo sapete che evidentemente qualcuno non l'ha aggiornato su quello che è successo, tra l'altro poi veramente fa una critica così a sbafo su una cosa che bisogna pure capire un attimo quale sia il problema, che poi la stazione Termini sia diventata un problema, questo non è discutibile, insomma, cioè nel senso credo che sia oramai sotto gli occhi di tutti, ma non con questo, cioè se tu stai a fare il biglietto al distributore arriva qualcuno e ti dà due coltellate, lì evidentemente ci deve essere anche un qualcosa sotto, cioè nel senso forse una premeditazione ci deve essere. Sì, ma infatti da quello che si ricostruiva ovviamente si sta cercando di escludere la pista la chiamano terroristica, no? Però effettivamente no, ormai è tutto terrorismo. Traiana, zaccagnata, dalle immagini si vede che era bersaglio, non è stata colpita a caso e non è stata colpita per rapina. Gli inquirenti stanno indagando, non sappiamo che cosa sia successo, però insomma è chiaro che non è stato questo in particolare non è stato un episodio né fortuito né casuale, e quindi così, però, insomma, al di là di sì, anche perché cioè, anche è complicato dire che può essere una rappresaglia di tipo politico o religioso, perché o la conoscevano, cioè non è che stava avvolta nella bandiera di Israele, no, ma infatti io ho più la ma magari la conoscevano, cioè magari comunque chi l'ha seguita era una cosa premeditata, hanno colto la prima occasione, oppure è semplicemente un problema pure magari una questione passionale, cioè non lo possiamo sapere, no? Cioè, oggi non lo possiamo sapere, però un incidente come questo, cioè a dargli una definizione politica dicendo ah vedete che schifo Termini, cioè, cosa dobbiamo fare, perché poi loro quando fanno queste domande implicitamente dicono bisogna mettere l'esercito per strada, capito? Cioè questo che loro vorrebbero, cioè, perché sennò che domanda è, dovrebbero mettere al governo anche un po', esatto, cioè qual è la domanda implicita che tu fai quando dici che cosa dovremmo fare, più sicurezza. Cosa devi fare? Più sicurezza? Cosa armiamo la gente, è quello che ovviamente, che poi dietro queste correnti politiche c'è anche un lobbismo sfrenato, che infatti vedete che sta uscendo fuori, insomma, con tutte le grandi azioni politico-ideologiche, insomma, stanno uscendo fuori da sto bellissimo governo che non lo so, secondo me, ma vabbè, comunque dai, Puccio. Faccio. Scusatemi, vi ho perso per un attimo, ho perso l'ultima frase di Simone. L'ultima frase era no, dico se c'hai qualcos'altro, perché sennò c'è anche Gualdi che scalpita, insomma. Passiamo alle recensioni. Le recensioni possibili. Io partirei dal botto, cioè partirei da quella persona, perché noi ci abbiamo fatto una puntata delle morti delle bestemmie su un tema del genere, se tu ti ricordi. Poi dopo ve la racconto, cioè ci fu questa, anzi ve la racconto subito, ci fu questa bellissima recensione negativa di una pizzeria, dove la madre, ovviamente, cioè era una madre perché solo le madri potevano fare una cosa del genere, praticamente hanno messo sta recensione negativa, ma proprio negativa, con una stella mi pare, una roba del genere, perché? Perché praticamente i proprietari del ristorante si erano permessi di lamentarsi, dato che si lamentavano gli altri commensali, del fatto che lei stava facendo cagare sul vasetto il proprio ragazzino al ristorante, sul tavolo, che giustamente, cioè, è una cosa incredibile, cioè voi ci avete proprio il coraggio, cioè nel senso non solo fingi di non renderti conto che è un'azione abominevole, ma poi questa gente si nasconde dietro è il pampin, ce l'hanno quel pampin, che è la stessa cosa che ci è successa a noi quest'estate con Costanza Vino, no? Quando questi sono arrivati, niente green pass, niente tampone, niente vaccini, niente in cazzo, e allora giustamente dice no, non potete stare nella nostra struttura. Ah, che schifo la recensione, avete lasciato degli anziani a dormire nella notte al buio senza un tetto, senza un green pass a difenderli, ma che cazzo vuoi, cioè nel senso, e quello che faccia cagare, tu ti immagini, no, io Alas lo domando a Walter, che è quello più, come posso dire, tra di noi è un po' più simile a me su certe cose, no? Cioè Walter, io e te stavamo a mangiare la pizza, ma a un certo punto al tavolo accanto questi mettono il vasetto sul tavolo loro e il ragazzino caga, allora tu che al di là del fatto di immaginarsi che vanno apposta in giro col vasetto, cioè tu capisci? No, ma esatto, è quel fatto. Allora, aspetta, però, che il ragazzino neanche dici, vabbè, il ragazzino sta a fare la transizione tra vasetto e pannolino, ma lo fai a casa questo, non lo fai al ristorante. Chiedi però a Walter, nella peggiorissima delle ipotesi, lo accompagni in bagno con il vasetto e lo fai in bagno. Vai, fai la domanda a Walter, se da sobrio o da ubriaco cosa farebbe, perché secondo me secondo me non cambia tanto. Io da sobrio magari potrei dire qualche cosa, da ubriaco mi tirerei giù i pantaloni, mi metterei a cagare pure io dentro al vasetto, così per dire, oppure sopra il bambino, o sopra il bambino che caga nel vasetto, proprio Inception di merda. Che bellissimo. Walter, rispondi alla domanda. Ma io penso che farei portare una pizza bianca al tavolo offerta da me a quel punto. E poi pizza e merda sopra. Esatto. Pizza alla Nutella. Ma cioè, che poi non è la cosa in sé. Cioè, tu stai a mangiare e senti la puzza di merda. Cioè, raga, ma è la cosa in sé che non c'ha nessun senso. Ripeto, prendi il bimbo, prendi il vasino e li porti in bagno. Sì, no, vabbè, ma la cosa in sé, nel senso, dico, cioè, proprio io arrivo sempre al punto in cui dico, posso anche accettare le cose estreme, però è la conseguenza che subisco io, non è il fatto che a me mi dà fastidio vedere cazzino che caga. Cioè, io sto a mangiare e tu mi fai sentire la puzza di merda. Cioè, capito qual è il problema? Cioè, secondo me è quella la cosa che provo. Questo povero ragazzino messo alla mercé di tutto il ristorante, messo sul tavolo con tutti gli spettatori a far tifo, vediamo quanta ne fa. Cioè, No, invece tu lo sai che quel ragazzino non arriverà a 50 anni perché avrà accumulato talmente tanta vergogna. Gli è venuto la stitichezza cronica ormai. Cioè, quello muore di botta perché è un contenitore di merda inesploso. E poi la cosa bella è che non è che si rendono, ragazzi, ma io da titolare di due ragazzi, non uno, due, ma mai nella vita, ma mi chiedo come gli è venuto l'idea ai genitori. Cioè, scusate, poi mi stavo a porre il problema perché quando siamo ma quello è pure esibizionismo comunque, perché poi c'è sta cosa della genitorialità come esibizione, come cosa, perché tu non vai al ristorante col vasetto, capito? Ma che esibizionismo, merda, ragazzi, io vi dico la verità, lo so, però è così. Ce n'ho uno d'emergenza in macchina nel caso gli dovesse venire, ma per carità, ma per carità, sono d'accordo, non è quello, è che non è che se c'è l'emergenza lo metti sul tavolo davanti a tutti, esatto, cioè oppure in macchina stessa, cioè nel senso, sì, come dici te, no cazzo, c'è l'urgenza, che fai, comunque deve cagare, cazzo, non è che si può cagare sotto, non sono d'accordo con voi, ma lì cioè è proprio una cosa premeditata, capito? Tanto allora sull'autostrada, culo de fuori. Quello è Puccio che a un certo punto si è lanciato dalla macchina in piena autostrada, saltando il guardrail e andando a cagare. Era Germania, no, era Svizzera, Germania, non mi ricordo. Era Svizzera. Bellissima, la scena più bella. A un certo punto si è ferma sta macchina, lui accosta così in mezzo all'autostrada. E io mi guardo così e dico: ma che cazzo succede? Puccio che c'è la macchina, scavalca il guardrail. Ma sicuri che lo volesse raccontare? Domando. L'abbiamo già raccontato spesso. È una roba notoria, mitologica. Esatto. È un po' come il pantacollante mio, quindi tutto sommato. Vabbè, quindi Gualdi. C'è questo, però secondo me qui è dell'onore. Tutto. Io infatti guarda, cioè anche un po' di critica sociale. Cioè io farei la recensione positiva alla recensione, cioè tutto. Allora, la frittura è stata eccezionale in questo ristorante, siamo molto contenti, 5 palle. Mio figlio ha dato fastidio a tutto lo staff e mi scuso davvero per l'accaduto. Dopo un paio di ceffoni ha smesso, per fortuna. Ma purtroppo vive con la madre, che non lo educa a dovere. Ristorante consigliatissimo, soprattutto per la pazienza. Soprattutto per gli schiaffi. E anche per gli schiaffi, perché insomma, gli schiaffi gli hanno di lui, mi hanno di quelli. Però devo dire che l'esatto opposto, ti metto una stella. Perché tu non mi hai fatto cagare il figlio sul tavolo. Aspetta, qui non c'è scritto. Dopo un paio di ceffoni miei, dopo un paio di ceffoni. Vabbè, questa è come la Rowling che dice: mica ho scritto che era bianca. Zitto, vabbè. Può essere. Vabbè, poi, può anche potrebbe essere anche, magari è stato picchiato dai camerieri. Esatto. Oppure il figlio ha dato i ceffoni al padre per calmarsi, perché qui non è che è vero, non si capisce, però comunque chiaro alla direzione dello, perché il bambino per rilassarsi deve menare il padre, no, esatto, gli ha insegnato la madre, infatti sono separati. Esatto, io c'avevo un amico mio che si faceva mozzicare al fio, cioè, ma gli faceva proprio male, cioè, per acquisire dei poteri? Non lo so, non lo so proprio mai. Vabbè, comunque, cioè, ecco, questo è l'esatto opposto di quella che mette la recensione negativa perché non gli fai cagare il figlio sul tavolo. Lui invece mette la recensione positiva perché il figlio lo stronzo e lo ha picchiato. Quindi è bellissimo, veramente complimenti. Io sono assolutamente. Allora, ma in realtà la recensione è perché ringrazia la struttura della pazienza. E che la frittura era buona poi. E poi, tra l'altro, vorremmo sapere qual è questo posto. Vorremmo decensurare perché se la frittura è buona, soprattutto se è de pesce, una bella fritturina di gambe di totani, dei calamari, non me l'ha mangiata tanto. Che poi, tra l'altro, lui si è soffermato sulla frittura perché secondo me per colpa di questo ragazzino non è riuscito a mangiare nient'altro, no? Quindi però vabbè, dai, allora, al di là dei ceffoni che a noi ci fanno ride, fanno sempre allegria, sì, fanno sempre allegria, fanno sempre, però io non sono mai stato per ceffoni, però insomma in generale non è mai una cosa bella, però è vero pure che insomma se non altro riconosci che c'è il figlio cagacazzi, è una cosa incredibile, è perché, colpa della madre, ricordiamo sempre, sì, però ricordiamo sempre quel ragazzino che dentro il negozio della Lego distrusse il Titanic. Capito? No, era tipo un museo, qualcosa. No, era la mostra, no, era la mostra della Lego, non era un negozio. Sì, vabbè, comunque era sì, che alla fine quindi ci scusiamo. Poi giustamente sono quando bambini, quando quello gli hanno presentato il conto, sono bambini, giocano un cazzo, cioè, scusate, perché poi dopo, cioè, sei comunque oggettivamente responsabile di quello che succede, anche perché poi dell'affondamento del Titanic. Del Titanic, esatto, sì. Anche lì secondo me c'era qualche bambino stronzo. Infatti, vabbè. Che ha preso il comando per qualche secondo, probabilmente. Poi Waldi, ci sono altre recensioni? C'è una stella al ristorante La Taschetta. Una stella perché purtroppo non ho avuto il piacere neanche di accomodarmi. Questa è sulla fiducia, anzi sulla sfiducia. Cioè, appena arrivati, senza prenotazione, ci siamo diretti verso il cameriere chiedendo un tavolo per due e ha esclamato "Ora no", senza fornirci altre informazioni su un'eventuale disponibilità. Siamo usciti e abbiamo gustato un'ottima carbonara altrove e ti do una stella così perché non ho potuto entrare. Comunque, allora, posso dire una cosa su questo? Allora, io comprendo che quando il ristorante è pieno perché c'hai prenotazioni e tutto quanto non ci si può fare più di tanto, però so sempre dell'idea che mandare via un cliente è sempre una cosa brutta, cioè nel senso, perché io conosco ristoranti che prenotano tutto, cioè se non è un tavolo, mezzo tavolo, due tavoli ti devi sempre tenere, perché la persona che arriva anche così casualmente che poi tu lo devi mandare via è sempre una cosa fastidiosa. Ma magari anche quello due tavoli non siano arrivate persone ancora prima e se si anche presi, no, ma infatti io da qui a mettere una recensione negativa per principio non lo farei mai, perché ci possono essere altre mille circostanze, appunto, cioè nel senso, cioè, ripeto, il ristorante se è pieno a un certo punto può succedere, ma no, una stella, se bisogna dargli una stella la prossima volta, no, lo so, però vero, a me mi è capitato di entrare in posti che ancora non erano pieni ma era tutto prenotato chiaramente e andare via così in quel modo a me mi dà fastidio, devo dire, cioè è brutto mandare via una persona, sempre è brutto una stella, però guarda, te posso di una cosa, è peggio quando ti dicono guarda sì però ti devi sbrigare perché c'ho il tavolo prenotato, anche è vero, anche quello è vero, peggio, sì, è vero. Mi è capitato sì in un posto, il problema è che alternative altre non ce ne sono, se è tutto prenotato può succedere, insomma, no, ma infatti io lo comprendo, però no, una stella giusto, ha fatto bene, ok, poi come anche questo nel ristorante La Veranda, due stelle, noi diciamo i nomi che sono genericissimi, no, sono dei nomi, i famosi ristoranti, La Taschetta, La Veranda, esatto, ce ne saranno a miliardi. Allora, numero di telefono, quello indicato risulta fuori servizio, due stelle. Cioè, è meritato. Cioè, non ci sono neanche andati. No, però hanno visto che il numero è fuori servizio, fuori due servizio, stelle, due stelle, cioè, non è una. Come La Veranda, un bel nome, due stelle invece che una, sì. Infatti, però tutto sommato, vedi, però tutto sommato sulla fiducia gli ha dato una stella in più. Esatto. Per rovinargli di meno la media, insomma, vabbè, comunque vabbè, fantastico. Ma io avrei potuto fare da peggio. Io è questo che dico: cioè, secondo me, gli strumenti vanno bene. Sono le persone che non vanno bene, quindi sempre patente per accedere alla linea internet. Sempre. Scusa, io vi continuo a dire: non sono le armi ad uccidere, sono le persone che le usano. Sì, sono anche le armi, però. Vabbè, ho però tutto può diventare un'arma. Però è peggio perché comunque le dai in mano alle scimmie, certo, è chiaro, insomma. Quindi. Poi... No, in realtà Simone, non so se sai che esiste una famosa legge di Murphy dell'informatica che riguarda però la programmazione, che recita testualmente: qualsiasi programma a prova di idiota sarà sempre meno intelligente del primo idiota che gli si siederà davanti. E sono d'accordo, certo, su questo concettualmente sono d'accordo. Ma in realtà sono d'accordo anche con quello che diceva Walter, non è che sono, però poi cioè nel senso alla fine a me quello che mi fa spiegare, io cioè queste persone non si rendono conto che involontariamente, inconsapevolmente o forse anche consapevolmente, cioè alla fine tu fai un danno all'attività commerciale. Lo sanno e credono di avere un potere da questo punto di vista e lo usano così. Non è, lo sanno bene, mica non lo sanno. Poi sai, c'è il ristorante che c'ha 10.500 recensioni, alla fine gli hai levato mezzo, no neanche mezzo punto, gli hai levato 0.2 punti. Sti cazzi, no? Cioè nel senso, c'è invece il ristorante che c'ha 100 recensioni con 1.000-2.000 recensioni, cioè avere 5 è impossibile. Quindi se c'è 4, no, 3, 4, no, 4, 5 non esiste proprio, cioè, secondo me c'è sarà sempre, quindi no, su 4 e mezzo, esatto, vai tranquillo, cioè. Sarà sempre qualcuno scontento. Io addirittura in dei posti dove io ho messo 4 o 5, magari sono ritornato la volta dopo, magari ho messo 3 perché magari c'era qualcosa che mi aveva fatto rodere il culo, cioè, però io non metto, cioè, mai uno per me non esiste, cioè. Ma facci un esempio di qualcosa che ti ha fatto rodere il culo. Beh, a me le cose che mi fanno rodere il culo prevalentemente è la scortesia. Cioè, io per esempio, cioè, vabbè, poi la cosa che mi dà fastidio è sulle recensioni Google, che il gestore ti può rispondere e ci può stare. Però se il gestore ti può rispondere, io non posso controrispondere. Sta cosa mi fa incazzare, perché mi ricordo, c'eri forse pure tu, Gualdi, eravamo l'ultima volta che siamo stati a cena con Giuseppe Saso, che c'erano anche i genitori, e c'era sto cameriere, che praticamente come aveva visto, sì, al castello, come aveva visto che loro erano siciliani, questo non si è più levato dal cazzo. Ma non si è più levato al cazzo, ma dicendo delle cose abominevoli, che lui in Sicilia lascia le chiavi della macchina attaccate al cruscotto, perché lì non, e a Roma invece rubano tutto, so, fa schifo, che merda, a Roma come dei giri rubano le mutande, e lui invece al paese suo in Sicilia erano tutti onesti, erano tutti bravi e via dicendo, che io vorrei sempre far notare che c'è della mafia, no? però ma poi oh, la mafia, con la mafia nessuno ruba niente. Però esatto. Però al di là di questo, comunque questo non si levava più dai coglioni. A un certo punto, dopo un po', una volta, due volte, tre volte, certo, io ho detto: scusa, ma abbi pazienza. Noi stiamo qua a fare conversazione con delle persone che vedo una volta ogni 2 anni. Cioè, se ci permetti, se ce lasci in pace, magari ci possiamo godere la cena. Ah, tu perché sei permaloso te la sei presa perché io ho detto queste cose qua. No, io ho detto: se tu pensi che io sono permaloso, che tu perché tu hai detto quelle cose là, vuol dire che tu sei uno stronzo che hai detto apposta per fatte di che per mettere nella condizione di che l'arsi sono permalosi. Cioè, perché a un certo punto mi hai rotto i coglioni. Sei andato, ovviamente, impermalosito, quindi da quel momento in poi, tutto il ristorante, però. Tra l'altro, c'erano l'altri due camerieri, di cui uno era il padrone, che ridevano questa cosa perché lo sanno che questo, evidentemente, faceva così. E quando siamo andati a pagare, mi hanno chiesto pure scusa. Mi hanno detto: ah, scusa, ma questo è così, è fatto così. Noi cerchiamo, insomma, di gestirlo. Io questa cosa l'ho scritta sulla recensione, io dopo 3 stelle, dicendo che resta uno delle migliori pizzerie dove sono andato a mangiare, le cose, la roba è buonissima. C'era questo episodio che veramente mi aveva rotto proprio il cazzo. Mi ha risposto il proprietario, che poi magari non era il proprietario, era sempre questo che magari si era preso, che dicendo: assolutamente non è vero, tutto il nostro personale è stato sempre gentilissimo, è stato lei che è stato maleducato. Ma come? Mi ha chiesto scusa quando sono venuto a pagare? Cioè, sei una merda, capito? Però posso pure capire, insomma. Io comunque sì, l'ho fatte delle recensioni negative, ma mai sotto il 3, è proprio difficile. E mi devi far veramente rode il culo, perché e succede, perché comunque dei posti dove vai e c'è casino, si comportano male, a malapena te parlano, non te rispondono, non te cagano, oppure te vengono a servire. Ecco, per esempio, una cosa che a me mi succede, che mi è successo spesso, è a Monte Rotondo, è capitato più di una volta in determinati posti, tu ti metti seduto, arrivi prima di un altro, però quello che arriva dopo di te è l'amico arrivano prima da lui, ordinano prima da lui, portano la magna prima a lui, e questa è una cosa che a me mi manda. E succede un po' ovunque. Fuori sì, però voglio dire, cioè, nel senso, ad esempio, qui a Monte Rotondo c'è stato un evento con Giorgione Orto e Cucina, io e Michela c'eravamo, insomma, 50 euro a persona de default, così a sbafo, più ovviamente gli extra che quando siamo arrivati noi siamo messi seduti, abbiamo ordinato l'aperitivo, poi sono arrivate delle altre persone, gli hanno portato l'aperitivo e sono venuti da noi dicendo scusate, l'aperitivo sono finiti perché purtroppo non avevamo considerato tutta la gente. Sì, ma gli ho detto però quello era l'aperitivo mio, cioè tu ti puoi inventare quello che cazzo te pare, cioè se sei un incapace o sei uno stronzo, purtroppo questo è una cosa da tenere in considerazione. Quindi è giusto che il cliente ce l'abbia lo strumento per dire però no, tu non mi rispondi al telefono una stella, sei un pezzo di merda, cioè tutto qua. Due stelle, dai, vabbè, due stelle, quell'altro no. Ma io personalmente trovo che tre stelle non sia da considerarsi negativo, anche perché significa buono, mi è piaciuto. Ti inverto il principio, io rarissimamente ho dato 5 stelle, perché secondo me 5 stelle è un giudizio assoluto. Ah, infatti io non le do mai. Quindi se non ne dai 5 o ne do 3 o ne do 4, per me 3 è insomma, okay, però se vuoi dare un segnale comunque di negatività parziale, almeno 2 lo devi mettere. Lo so, però io sì, è assolutamente sensato quello che dici, e cioè voglio dire, in effetti dovrebbe essere così, però siccome che comunque vedo più la negatività nel 2 stelle, sì, cioè, secondo nel senso, me, perché non ti è mai capitato di chiamare qualcuno e il numero non era attivo, se avessi messo 2 stelle. No, mi è capitato, a me mi sono capitato delle volte che veramente avrei messo, se fosse stato 0 avrei messo 0. Però poi penso sempre al fatto che magari un singolo episodio, un singolo contesto, magari di una persona che è uno stronzo piuttosto che tutto il resto, magari del team che invece sono brave persone, comunque magari comunque il mio carico possa essere dannoso rispetto a quello che loro fanno de norma. E quindi cerco sempre di non essere mai, come te posso dire, troppo eccessivo nelle cose. Però lo scrivo nella recensione. È vero pure che secondo me poi la recensione è, in quanti la leggono, magari vedono le stelle piuttosto che la recensione. Ah, vedi, questo ha messo 2 stelle, no? Vedete? Oppure, boh, forse le leggono, non lo so. Soprattutto se le recensioni sono lunghe, non la legge nessuno. No, quello infatti io sempre molto brevi le mie recensioni. Già all'epoca dei giornali di videogiochi, figurati le recensioni dei ristoranti. Sì, no, vabbè. Comunque, ragazzi, 2 cose. Dobbiamo fare un altro coccodrillo. Aia. Un po' a sorpresa. Vabbè, a Walter dirà molte cose, ai nostri ascoltatori dirà molte cose. È morto l'altro autore di Mazinga di Goldrake, che cosa quota 4 ore fa. Oh yeah. No, peccato, perché quindi sono morti tutti e due gli autori di Mazinga. No, Konagai è vivo. Che ne so, tu hai detto l'altro autore. Ah, no, nel senso, ok, no, non è. Alla fine è attribuito più comunemente solo a Konagai, quindi sì. Sì, però no, in realtà chi l'ha letto sa che se quelle serie hanno un minimo di senso, perché cosa quota ce l'ha messo. Sì, ha dato una drizzata. Vabbè. Un'altra cosa, non per rubare il lavoro a Marco, ma parlando di recensioni strambe, l'altro giorno me ne è capitata una che vi giuro non ho fatto in tempo a fare lo screenshot. Pratica recensione di sto tizio che a Genova trovato un ristorante con la fidanzata, ristorante vuoto, lo hanno messo in un tavolo con la fidanzata vicino al bagno, lui ha chiesto un altro visto che erano tutti liberi e sono stati accompagnati all'uscita. Non è tanto l'evento in sé, che magari il cameriere è stronzo, rotto di palle, vedete, quanto il commento di un ragazzo di Genova che ha scritto: è già tanto che non gli hanno fatto pagare il coperto. Giusto, è Genova, succede. È a Genova, sì. Simone, ci stai dicendo che dobbiamo chiudere? No, no, è la base normale. No, è la base normale, ho levato quella triste. Si è pompata un po'. No, non lo so perché sto a un quarto. Boh, vabbè. Però se siamo dimenticati, giustamente, come l'ha detto Luca, ce l'aveva postato che è morto l'autore di International Karate. Eh? Ah, sì, è vero, l'altro giorno ho letto pure quello di K+. Giusto? Sì. Archer MacLean è morto, ci dispiace Arciere anche lui. Arciere del Pulito, insomma. Esatto, MacLean. Interessante. È arciere di Pulito. Sì. A proposito di arciere, invece potremmo dover fare il codrillo di occhio di falco. Una brutta storia. Non è morto, sta. No, potremmo, nel senso. Perché Jeremy Renner, che è una personcina che è rimasta umile malgrado i successi cinematografici, si stava spalando da solo la neve dal vialetto di casa. Solo che non so se avete visto quanta ne ha fatta in America in queste settimane. È stato travolto dalla neve, sta insomma in condizioni gravi in ospedale. Gravi, non è in pericolo di vita, almeno non sembrerebbe. Però, no, però c'ha diverse fratture, si legge. Diciamo, tra l'altro, come ha fatto notare qualcuno, è rimasto coerente col personaggio, perché nei fumetti dei Vendicatori si vede che l'unico povero stronzo che si fa male sul serio e finisce in ospedale è Occhio di Falco. Quindi. Ma anche nella miniserie infatti lì lo spiega bene. Emma Domi se ne è fatti parecchi. Sì, sì, no, lì lo spiega che lui comunque alla fine è una persona normale, molto addestrato, però... Sì. Fondamentalmente è una persona normale. Poi vabbè, ci hanno messa la ragazzina di mezzo per fare lo step over, no? Nel senso, perché sapevano già che Jeremy Renner sarebbe morto. A questo gli casca un blocco di neve addosso. Se lo dico io, guarda, dammi retta. E vabbè, comunque, vabbè. Guardi, ce l'hai un'altra recensione? Se no, poi sentiamo Walter. Una recensione dal ristorante Sushi Ninja. Sushi Ninja, sushi bello. Ninja. Sushi Ninja. Cioè, è come se tu vai in America e apri il ristorante che si chiama Cowboy Burger. No, un ristorante italiano che si chiama Mamma Mario. Cioè, ci sarà. Due parole così a caso. Comunque la ragazza ci dice: il cibo non era fresco. Perché? E io e mio marito abbiamo dunque lasciato alcuni dei piattini ordinati intoccati. Cioè, il cibo era freddo? Perché era sushi. Non era fresco. Ah, non era fresco. Non so, avvicinate al microfono. Comunque, però ha lasciato i piattini intoccati. Prendeva di non pagarlo, scommetto. A questo punto, il cameriere ha provato ad insinuare, mortacci sua, aggiungo io, che i piatti intoccati, avendo noi ordinato con la formula all you can eat, sarebbero dovuti essere pagati a parte. Certo. No. Dov'è l'insinuazione? Aspetta. Questo, e adesso parte la manfrina. Io sto poco bene ora dal momento più o meno in cui mi sono alzato dal tavolo. Certo. Questo è ok. E ho consumato per lo più cose cotte, gastroenterite seria. Sconsiglio vivamente questo ristorante. Il cameriere è anche molto maleducato, insomma. Ah, ricordiamo, stiamo parlando del Sushi Ninja di Gubbio, giusto? Esatto. Sì, e beh, so che non abbattono il tonno. Lo lasciano vivo, insomma. Allora, ma vabbè, che tristezza. Un'altra. L'ultima. Il cibo, sempre Sushi Ninja, perché questo gli dà tanto. Sto Sushi Ninja è un po' una merda. Aspetto, comincia a chiedere. Scusa, perché ninja la merda. È ninja il problema, non è il sushi. Non te lo aspetti. Vabbè, vai. Il cibo è abbastanza buono, ma il cameriere indiano è un incubo. Allora è lui. Un incubo. Parla, non se ne va mai dal tavolo. Con lo stesso straccetto pulisce tavoli e sedie. I tablet che tutti toccano non li pulisce mai. Non sa che abbiamo i maxi rotoli di carta, che esistono i maxi rotoli di carta? Abbiamo chiesto posate normali, le ha portate e le ha appoggiate sul tavolo, ma visto come lo pulisce, forse è meglio se lo porta appoggiandole su un tovagliolo. La pulizia è fatta di piccoli particolari. Quindi due stelle. C'è la chiosa. Ah, ok. Ci tornerò per osservare se questa recensione ha avuto gli effetti desiderati. Ah, perché si sente importante. Così non sarà, non ci tornerò più e ovviamente non lo consiglierò a nessuno. Quindi dipende. Cioè, questa persona ritorna. La vita di questo ristorante dipende da questa donna. Vai, Walter, dicevi? No, no, la stessa cosa appunto che si cioè, sente da, esatto, l'artefice del destino. Sì, si sente talmente importante per andare a vedere cosa questo suo gesto ha influenzato. Allora, però una cosa la dobbiamo dire, cioè questi camminieri. Come di questa utente Elisabetta II, che poi è schippata e non è più tornata, perché no, se no, no, non si spiega. No, comunque è vero che sti ragazzetti indiani, cioè diciamo, hanno una cultura dell'igiene un po' diversa dalla nostra. Questo è. A noi ci è successo pure con Olivia, se tu te lo ricordi, lei va a chiesto un cucchiaio, questo prende, gli appoggia così sul tavolo. Con la mano morta. Sì, tra l'altro. Gliel'ha appoggiato. Gliel'ha appoggiato, esatto. Sul tavolo poi. Gliel'ha appoggiato sul tavolo e lei giustamente poi se ne è fatto riportare, perché giustamente neanche sulla tovaglietta o sul piatto, sulla posata, proprio boom, così sul tavolo. Per l'appunto effetti... l'ha leccato, cioè adesso è pure. E lei ha detto, me lo cambi, io gli ho detto, scusa, vai. No, dicevo, proprio l'abuso, il fatto di non utilizzare le tovaglie ormai in questi locali, ma anche soprattutto quelli etnici, a mettere soltanto la tovaglia quella stretta di incannucciata o comunque sia di bambù, quello che è, però più stretta del tavolo, è già quella una prassi sbagliata, sì, a prescindere. Che tra l'altro, vabbè, però quello è, vada, che cioè, tra l'altro la, moda, la, la, stessa, sì, la stessa carica batterica dei malieri del Sant'Andrea, quella sì, no, però, vabbè, ma in generale se tu vedete tutti i ristorantini americani, no, che hanno questa nuova logica di queste cose un po' strettine, così fatte in quella maniera, poi loro c'hanno il fatto che tu alla fine con la soglia sporchi tutto, fa un casino, quindi sotto sempre... metti un passepartout nero qualcosa, però insomma non sì, diciamo insomma che io non è che mi soffermo tanto su quello. Io penso che se tu mi porti comunque un oggetto, una posata, me la posi o sul piatto o comunque me lo porti in un tovagliolo, cioè nel senso questo io, vabbè, poi io su queste cose tendo a non essere particolarmente schizzinoso, neanche io, ultimo dei problemi, neanche io, esatto, sono d'accordo con te, però a lei in quel momento gli ho dato fastidio, poi a quel punto devi fare un po' una scelta, cioè nel senso glielo richiedi e col rischio che quello te lo porta via, va al bagno, se lo ficca al culo e te lo riporta. Perché insomma questo... no, ma quello lo fa normalmente. Questo c'è, cioè, il rischio di questo, quindi io sai, potrei starci la bocca, insomma, vai. Io vi ricordo che il cucchiaio è l'arma dell'assassino, estremamente lento, con l'arma estremamente inefficace. Non so se vi ricordate il famoso 10 anni per uccidere una persona. And again, and again, and again. Guarda, io vi leggerei le ultime due o tre recensioni del Sushi Ninja e poi sono velocissime. Sì, poi sentiamo Walter se c'è il nostro amico Pillon da qualche parte. Allora, abbiamo ordinato una barca, qualità del pesce scadente, abbiamo avuto entrambi la diarrea per due giorni. Comunque sto Sushi Ninja, lo vedi che il ninja è te io sto Sushi Ninja, pensa che non è al cubio. Un'altra ci dice sono stata malissima. Questa chiude. E poi un'altra che invece si è sentito dispettito perché il servizio fa schifo, sempre la sorpresa quello che ti portano, non arriva mai quello che ordina. Vabbè, questo succede pure a noi perché noi ordiniamo e non ci ricordiamo cosa abbiamo ordinato, quindi cioè, però ragazzi, noi se mangiamo tutto, cioè, la differenza noi però solo mangiamo. E vabbè, no, con questo Sushi Ninja dov'è che sta, questo possiamo pure dire, non te lo ricordi, non te lo ricordi, vabbè, comunque se a Roma, credo che sia a Roma, ok, se trovate un posto si chiama Sushi Ninja, io se fossi in voi pensateci due volte, esatto, perché il ninja colpisce le spalle, esatto andate al Sushi Samurai che è più onorevole. Tra l'altro io, Gualdi e Sbano alle 9 di mercoledì prossimo andremo a mangiare un qualcosa qui a Monterotondo e poi gli scriveremo la recensione, quindi però la facciamo cumulativa, una recensione a tre, capito? Vediamo un po' che ne esce. Vabbè, è che tanto noi frequentiamo sempre gli stessi posti, perciò. E allora usiamo. Vabbò. Pillon, dai, sentiamo Pillon. Allora, dai, visto l'orario, ne avevo due, ma ne scelgo solo una, perché mi piace quando lui si inerpica in questi estrosi momenti di descrizione dell'arte cattolica, no? Perché ricordiamoci che Pillon è un avvocato cassazionista di professione, quindi di arte non è che ne sappia granché, e non perde l'occasione per dimostrarlo. Ed ecco la descrizione di questa miniatura di una famiglia precristiana nel giorno del matrimonio della figlia. A chi vuol distruggere la natura, la storia e la tradizione rispondiamo mostrando la bellezza immutabile nei secoli della famiglia, del matrimonio e della nostra fede cristiana. Io purtroppo contributo, però aspetta, no? Vai, scusa. La cosa bella è che gli fanno notare che la miniatura che lui descrive altro non è che un medaglione in vetro dorato del III secolo di origine alessandrina, ma tradizionalmente creduto raffigurante Valeriano III, la madre Gaia Placida e la sorella Giusta Greta Onoria. Di conseguenza, famiglia come l'ha descritta lui, manco per il cazzo. E quindi, tanto per, come al solito, lui prende un'immagine, ci costruisce attorno una casuale liturgia cattolica e poi viene blastato. Poi non cattolica, proprio lui è fissato con sta famiglia e a me mi verrebbe da dire una cosa, ragazzi. Vuole fare ortodosso, ma la verità la sappiamo tutti e la sa anche lui, solo appunto, che non lo possiamo dire. Appunto, appunto, no, se non lo dico. Mentre che Tomaiuolo in chat ha postato praticamente questa immagine che dicono sia Taranto, perché no, lo dice, no, è Taranto. Lo dice dove c'è praticamente questa testimonianza di prima mano. Questa petta che va in giro sparando bombardoni a destra e a manca. Ragazzi, mi è stato fatto notare, perché sto video sta circolando da ieri sera, da un'amica che sta dicendo che le ha dato una cosa da sottovalutare, perché a Taranto l'Ape Piaggio è una specie di simbolo politico, perché con gli Ape Piaggio hanno fatto i blocchi, che è quello che scrive lui, infatti. Esatto, e quindi diciamo, diceva questa ragazza, io non mi stupirei se fosse una specie di provocazione politica che non è stata colta. Quindi, va bene, allora ci abbiamo altro? È bella da vedere. Sì, no, l'idea è geniale alla fine, cioè, se ci fanno, pericolosa, ma geniale. Puccio, c'hai qualcosa con cui chiudere la puntata? C'è un cazzo, no, in realtà volevo portarvi una testimonianza da TikTok più che da... Vai, questa ci interessa. Sì, allora... Pure l'altra volta ne hai trovata una caruccia, quindi insomma... No, è sempre su Twitter, vabbè, però stavolta in realtà è una cosa un po' meno complicata, è un po' più stupida, volendo. In realtà che cosa è successo? È nato un trend in cui le ragazze hanno chiesto alle loro madri di indossare i vestiti da giovani, e le hanno riprese con questo cambio di abbigliamento. Allora, l'idea era quello di far notare come un cambio di vestito potesse valorizzare una persona indipendentemente dall'età. In realtà è diventata la fiera delle MILF. La cosa più divertente non sono stati i video in sé, quanto i video di reazione che hanno, quelli che in gergo chiamano Stitch, che hanno fatto i ragazzi per mostrare l'apprezzamento più verso le mamme che verso le figlie. Sono nate interessanti discussioni, soprattutto per queste ragazze, insomma, giovani, 18-19 anni, che si sono sentite offese dal fatto di essere trovate meno attraenti delle loro mamme. Mettila in conto, insomma. Ma la maturità, ragazzi. È la MILF, è la MILF, insomma. La mamma di Stifler, ragazzi. Esatto. Mamma, pausa merda. No. Chiamami mamma di Stifler. Bene. Il finale di un Stifler. Film della storia. Bene, bene, bene. Walter, c'è altro? Senti, solo un tributo, perché oggi ha fatto la puntata Leo, quindi non ci torniamo per intero. Ah, giusto, è vero, hai ragione. Il match vinto 3-0 da Greta Thunberg contro Andrew Tate, questo ex artista marziale, che ce l'ha proprio con lei, ne ha fatto ragione di vita. Andrew Tate è stato all'epoca bannato da tutti i social per comportamento misogeno, volgare, eccetera, e in particolar modo però su Twitter è stato riabilitato, come tante altre merde umane, dalla volontà di Elon Musk qualche settimana fa. Non ha perso tempo, è andato proprio a cercarsi la rogna, perché senza nessun motivo ha taggato la Thunberg che dir si voglia, dicendo: guarda, la storia ormai la sappiamo tutti, io ho un lungo elenco di macchine iperinquinanti, cioè ho 33 macchine, la mia Bugatti ha il motore 16 valve 8 litri quadro turbo, le mie Ferrari hanno il motore 6,5 litri e 12 valvole. Questo solo per cominciare. Nella foto lui che fa il pieno alla Bugatti e dice: mandami la tua email così posso mandarti la lista completa delle mie macchine e delle rispettive emissioni inquinanti. E Greta Thunberg ovviamente non si è fatta parlare alle spalle, gli ha risposto subito: sì, ti prego, illuminami, mandami la lista, e gli ha scritto la sua casella di posta elettronica, che fondamentalmente, per banalizzare, potremmo tradurre in "ce l'ho piccolo, chiocciola fatti una vita.com". E allora lui ha reagito, si è impuzzato subito, giustamente. No, lui subito allora ha fatto questa foto in reazione di lui che fuma il sigaro nel suo salotto di casa, con sull'inquadratura questa scatola della pizza, La leggenda vuole, anche se è stato già smentito dalla polizia rumena, che questa scatola abbia contribuito a far capire agli inquirenti rumeni, dove lui è ricercato per traffico di esseri umani, che si trovasse in Romania, e quindi da lì a poco se lo sono bevuto. E questo è un giusto epilogo per la stupidità umana, insomma. Poi ovviamente anche questa volta non pagherà più di tanto, verrà probabilmente scarcerato subito, farà 30 giorni se li deve fare. Sì, vabbè, sai, comunque lo processeranno. Poi sai, in 30 giorni ci vuole poco a fare una rissa e farli diventare 60 giorni, farli diventare 6 mesi, capito? Cioè, poi sai, soprattutto quando vai in paesi, appunto, soprattutto quando vai in paesi, insomma, dove magari c'è un discorso un po' diverso. Diciamo un rispetto per la dignità umana qualsiasi. Un po' diverso, sì. Cioè, diciamo, allora, io vorrei dire, a parte che lui traffico di esseri umani e anche violenza sessuale, se non sbaglio. Comunque, sì, perché circuiva delle donne e poi le costringeva a fare dei video porno a casa sua. Ok, comunque il discorso è che questa gente, è vero che è pompata di anabolizzanti, piano un sacco di botte in testa, quindi cioè alla fine sono più paragonabili a delle scimmie che a delle vere persone, cioè non hanno una struttura morale. Questa cosa mi fa stupore di sto tizio. La domanda che mi faccio è: ma per quanto possa aver avuto una carriera nel mondo delle arti marziali abbastanza relativa, a meno che non abbia partecipato ai campionati underground di slap, di face slap, dove ti danno le palanche in ragazzi, tanto rispetto. Io dove ha trovato i soldi per comprarsi tutte quelle macchine, mica ma, ho, ma secondo me sono tutte cazzate, cioè la metà di quelle cose sono stronzate, perché poi va proprio de moda. Tu apri TikTok e vedi tutti sti super palestrati, super tatuati con sti mazzi dei sordi, perché arriva, cioè a me posso dire che a me sta roba non ti invidio, non te stimo, non mi provo io nessuna sensazione, preferisco essere povero come la merda, ma invece una dignità come persona che tu, che poi alla fine fai queste cose, non, secondo me manco delle godi, perché sei troppo stupido. Cioè, quando c'è una stupidità talmente pervadente nel tuo animo, che alla fine non neanche lo sai quello che stai a fare. Ripeto ragazzi, Andrew Tate è uno che se fanno la gara, il campionato per chi è più coglione, lui arriva secondo perché è troppo coglione per vincere. Sì, ma poi dall'altro se pure c'è, cioè, non è che Greta Thunberg ha vinto 3-0, cioè ha fatto tutto da solo, capito? Cioè è proprio un coglione, che poi ricordiamo il perché è stato pizzicato, no? Giustamente, perché comunque lui con sta foto della pizza, dato che lui era ricercato, comunque subito. Sì, ripeto, pare la polizia rumena ha smentito che fosse... Sì, anche se molti ragazzi rumeni stavano dicendo se l'hanno arrestato in virtù del fatto che l'hanno capito dalla foto della pizza, non ve lo diranno, perché i poliziotti rumeni ci tengono a fare bella figura. Sì, sì, vabbè, ma guarda che ci fai bella figura pure in quel modo, cioè, non è che... Scusatemi ragazzi, vai. Però se hai bisogno della foto del cartone della pizza per sapere che un tuo cittadino sta a casa sua nella capitale del tuo paese, perché manca di che era nascosto chissà dove, quella era la sua villa. Perciò, cioè, vabbè, ma come i ragazzi che sono scappati dal Beccaria a Milano, li hanno trovati a casa della nonna, voglio dire. Non ci vuole, non ci vogliono i servizi segreti, capito? E quello è il discorso, non ci devono volere. Secondo me tu stai in carcere e ti capita, ti sei organizzato, non ti sei organizzato, ti capita l'occasione di scappare, scappi, e quando sei scappato ti rendi conto di aver fatto una cazzata. Perché poi, se non stai sopra. Che, no, dici, mi danno da dormire. Allora vai da nonna, perché dici vabbè dai, è brutta, mi rivengano a prendere qua, cerco di fa, capito? Cioè non troppo a figura di merda, però allo stesso tempo di non scappare, di non darmi alla macchia, perché sennò poi dopo so cazzi mia. Perché io lo posso, magari guarda, mi fa le lasagne. Lo posso pure capire, veramente. Magari quello è andato lì proprio per quello. Se sognava da chissà qua. Sapeva che la nonna l'avrebbe comunque protetto, mentre il genitore l'avrebbe rimandato in carcere a calcio in culo, la nonna magari per il nipote stravede l'avrebbe protetto un po' di più, non lo so. Dipende, no, vabbè. Mia nonna mi avrebbe riaccompagnato in carcere per recchie. Esatto, cioè, esatto. No, vabbè, che materna. Che poi è successo in determinate situazioni, che poi alla fine sono proprio i genitori che quando si sono resi conto che cosa stava succedendo, ma in una determinata cosa hanno preso e hanno denunciato, perché poi capita, insomma, anche giustamente, ma a volte lo fai anche per il, non, per so il che, bene della ragazza. Eh sì, a volte poi è difficile da comprendere, però è anche così. No, ma è così, allora drizzi subito. No, ma anche perché poi secondo me peggiori solo la situazione, capito? Allora cercate di metterci una pezza in qualche maniera, no? perché poi c'è anche questo, perché più vai avanti più la tua situazione diventa poi sempre meno difendibile, meno gestibile, insomma. Vabbè, dai, vabbè, direi che ci possiamo accomiatare. E con sulle note di FIFA 1997, fuga da New York. Fuga da New York. Intanto guardi, ormai c'ha la sindrome di Michela, quello del microfono mi fa schifo. Non... Ci sto davanti. Ok, adesso. Ma anche prima. Prima ti hai rimesso di lato. Non mi sono mosso. Ora devi capire, Marco Gualdi è un radicale. Il microfono o un giorno in pretura o niente. È vero. Tra l'altro è proprio quello di un giorno in pretura. Io, che poi tra l'altro, ma che cazzo ti viene? Vabbè, quelli sono proprio zingarume. Vabbè, con tutto rispetto, perché non è. Cioè, nel senso, gente che non. Che non c'è proprio un criterio. Comunque. Grazie a Marco Gualdi. Io vi prego. Preghi, preghi. Mi raccomando, mercoledì prepari la recensione, perché. Anzi, se vi capita, fate una recensione anche al nostro podcast. E fate recensioni anche alle cose che comprate dal nostro shop su Hotplix, che finalmente ha iniziato a rispedire piano piano la roba, anche se le manda poi a persone a caso, tipo Bari. Esatto. Sperando che inizi a spedire anche il dovuto. Sì, esatto. Esatto. Sale, continua a salire. No, in teoria questa settimana dovrebbe. Perché mi hanno detto che era ulteriormente. Vabbè, dai. Vabbè. Non ritorniamo sopra. Grazie a Walter Sbano. Ciao. Grazie a Carmine Puccio Console. Ciao. E ci sentiamo lunedì prossimo, speriamo al completo, anche con il buon Francesco, che non c'è stato e non era manco dato sapersi, ma è a casa, ci siamo abituati. L'importante è che è a casa, perché questa cosa che lui è a casa, ragazzi, è molto più importante di quanto voi non possiate immaginare. Ciao a tutti e buon anno ancora. Ciao.